Cialtroni nello spazio, oggi speciale campagna abbonamenti, in teoria è la settima o l'ottava puntata, la chiameremo invece Cialtroni nel tempo. Cialtroni nel tempo perché la campagna abbonamenti di Radio Onda d'Urto coinvolge anche le trasmissioni dello spazio Dissonanze. E in più oggi noi come Cialtroni nel tempo abbiamo assolutamente un regalo privilegiato per gli abbonati e le abbonate che decideranno di abbonarsi durante questo spazio. Dovete farlo il più presto possibile, quindi finché siamo in onda potete telefonare allo 030 45 670, abbonarvi a Radio Onda d'Urto e oltre a tutti i vantaggi che ci sono ce ne sarà anche uno particolare. Avrete Marco Ghidinelli a casa vostra a installarvi Linux, la versione che volete, con tutti i risolti conflitti di qualsiasi tipo di periferica. Marco GH verrà a casa vostra a installarvi Linux se vi abbonate allo 030 45670 durante appunto la campagna di abbonamenti nello speciale spazio di Cialtroni nel tempo. Una puntata un po' particolare oggi, Alessandro, Marco, ciao, buongiorno a tutti. Esatto. Ciao a tutti. Salutiamo tutti, anche noi. Tra poco dovrebbero raggiungerci, tra l'altro, in studio anche gli altri redattori di Un Tempo, per questo che si chiama Cialtroni nel Tempo. Ci sarà probabilmente Cristiano e Pony, che hanno promesso Giorgio è appena arrivato, perfetto. Quindi adesso inizieremo subito a intervistarlo e farci raccontare gli antipodi di Cialtroni nello spazio, che non esisteva, però esistevano delle cose molto interessanti legate a Radio Onda d'Urto e la informatica. E poi avremo anche del materiale di archivio, in particolare in questi ultimi mesi da quando è ritornata Cialtroni nello spazio abbiamo spesso parlato di repressione e parleremo anche riproponendo alcune vecchie trasmissioni che erano state fatte, in particolare la repressione ai tempi del primo Italian Crackdown attorno al 94. E poi abbiamo anche delle cose carine, in particolare un'intervista con Gomma, registrata sempre nel 94, che ci spiega che cos'era internet all'epoca, insomma una cosa abbastanza carina. Però insomma, a Marcord. Sarà molto carino anche appunto intervistare Giorgio, che ci ha appena raggiunto. Ciao Giorgio. Ciao. Hai deciso di venire a trovarci oggi nella trasmissione in quanto vecchio redattore di Radio Onda d'Urto qualche anno fa. In che periodo tu trasmettevi? Oddio, non me lo ricordo sinceramente, nei primissimi anni non sono mai stato un bravo redattore, diciamo così. Ogni tanto facevo qualche sabato mattina facendo la rassegna stampa e poco altro. Però sei stato uno di quelli che era coinvolto un po' nella nascita di una BBS bresciana che era legata a Radio Onda d'Urto e che noi, insomma, ci piacerebbe un po' magari ricostruire qualche passaggio di quel periodo, perché insomma, a parte che molti degli ascoltatori e ascoltatrici di oggi non sanno che cos'è una BBS, che era un po' diciamo così un antenato di internet in una maniera molto molto blanda, insomma, per spiegarlo. Però la radio aveva una BBS. In che cosa consisteva, Giorgio? Beh, la BBS, vabbè, per spiegarla in termini molto semplici, era una serie di calcolatori collocati nelle varie città che si scambiavano durante la notte tramite linea telefonica le varie informazioni. C'era un sistema tipo quello che oggi sono i news group, un sistema tipo quello che è oggi la posta elettronica, e diciamo questi nodi che facevano parte della BBS, dislocati come dicevo prima nelle varie città, si scambiavano durante la notte questo tipo di messaggi, questi tipi di cose, e poi c'erano degli utenti locali che tramite sempre linea telefonica si collegavano a questi nodi locali e scaricavano, leggevano la propria posta e leggevano i news group che come li chiamiamo noi adesso. Questo, ecco, come proprio in parole molto molto semplici. E come sei arrivati ad avere una BBS a Radio Onda d'Urto? Che non so se a Brescia ce n'erano altre, però sicuramente Radio Onda d'Urto era una delle poche. Sì, beh, questo è stato, diciamo, dovuto in un certo senso alla sensibilità della radio, che ha voluto, diciamo, connettersi a questo gruppo di computer che aveva i suoi nodi principali a Milano, Torino, Padova, Bologna e sicuramente ne dimenticano qualcheduno. Comunque era diciamo la prima esperienza di comunicazione antagonista, se così vogliamo dire, per cui la radio è stata sicuramente sensibile a questo, ha messo a disposizione appunto le linee telefoniche. Mi ricordo che il numero di telefono che adesso viene utilizzato dalla radio 030 45 670 se non sbaglio era proprio. Sì, assolutamente numero... questo, anzi l'invito a chiamare e abbonarsi in diretta per avere poi Marco a casa per installare sul vostro computer Linux è ancora valido, tra l'altro. E questo numero di telefono era proprio il numero collegato al calcolatore tramite modem utilizzato per la BBS ai tempi che furono. Intanto ci ha raggiunto in studio anche Cristiano. Ciao Cristiano, grazie di essere venuto ciao, anche tu ciao con a noi. Tutti. Tu quando è che trasmettevi in radio? Ultimamente non hai trasmesso molto. Io ho cominciato a trasmettere in radio, non mi ricordo quando. Sinceramente, poteva essere... Il periodo in Via Grazia l'ho trasmesso tutto. Questo mi ricordo. E non mi ricordo gli anni, li ho persi. Non sono riuscito a prepararmi una scaletta ricostruita. Ecco, male, molto male. Mentre invece sono noi le nostre tre... Ieri sera, scavando nei miei archivi, ho trovato tutte le tessere della radio. Dalla prima di Radio Graffiti, quando andavo al liceo. Sì. Però le date non sono riuscito a ricostruirle. Boh, comunque devo aver trasmesso più o meno continuativamente dall'89, credo. Quindi uno dei primi, quasi. No, non proprio i primi primi, però insomma ancora prima. Ma anche prima giravo attorno, magari non ho mai trasmesso, non ho avuto il coraggio di sedermi dietro a un mixer, però c'ero. Ok, senti, allora prima stavamo... Adesso, nell'ombra. Prima stavamo parlando delle BBS e proprio relativamente alle BBS noi volevamo anche ricostruire un po' alcuni... estratti che ci sono stati in trasmissioni che erano state fatte da Radio Onda d'Urto proprio sulla libertà digitale. Alessandro, vuoi presentarci un attimo che cosa andiamo ad ascoltare? Un breve stralcio di un'intervista con... Allora, il primo brano che presentiamo, il primo estratto dell'intervista è fatta a Vittorio, detto Cyber Joker 10N, che nel 94 già era presente come rete antagonista e forse faceva parte, era poi la BBS a cui faceva riferimento Giorgio, in cui parla appunto di un attacco, l'Italian Crackdown, che era stato portato nei confronti di alcune BBS e sempre riguardato il problema della protezione del copyright, che andava a giustificare poi un attacco alla libera circolazione delle informazioni che nulla aveva a che vedere con materiale protetto da copyright. Andiamo a sentire quindi questo estratto. È un colpo duro alla libertà di comunicazione, alla libertà di informazione da una parte, alla riappropriazione, all'uso e al controcontrollo dal basso di queste tecnologie dall'altra. Spiegati meglio. Sì, è il caso di spiegarsi in effetti. Ora, la situazione per quel che riguarda l'informatica di base e l'informatica diffusa in Italia all'oggi è paragonabile forse a quella della diffusione delle radio private negli anni 70. Cioè c'è un gran movimento di sperimentazione, di riapproccio a queste tecnologie e un avvicinamento da parte di tante soggettività non politicizzate necessariamente, anzi penso che sia proprio una parte limitata quella politicizzata che utilizza queste cose, però una diffusione molto molto ampia, si parla di migliaia di soggetti che si avvicinano alla comunicazione attraverso questi strumenti. E, ripeto, l'esempio potrebbe essere quello appunto della diffusione delle radio private negli anni 70 e il paragone rispetto all'operazione che è stata effettuata l'11 maggio con questa retata della finanza può essere paragonata alla chiusura di una cinquantina di redazioni locali di giornali o una cinquantina di radio private emittenti locali. Però è stato dato poco risalto sulla stampa questo, pochissimo direi. Infatti, perché c'è poca conoscenza degli strumenti che sono stati toccati. Per assurdo c'è poca conoscenza anche da parte del potere stesso, o meglio, da parte degli sgherri che hanno realizzato l'operazione. E forse riusciremo anche a capire chi aveva fatto questa trasmissione nel 94, noi non ci siamo riusciti, l'invito è chi ci ha ascoltato e ha capito chi stava intervistando Vittorio, o si è riconosciuto, può telefonarci allo 030 45670, sempre in campagna abbonamenti, sempre Radio Onda d'Urto. Cialtroni nel tempo per la giornata di oggi, avremo anche altri estratti da farvi ascoltare prossimamente. Un po' anche sulla storia di internet e trasmissioni che erano fatte quando internet non era così diffusa. Quando praticamente non esisteva in Italia. Ah, sempre riguardo la BBS, volevo farti ancora qualche domanda, Giorgio. Quando è che si è chiusa la BBS poi? Ops. Domande difficili, no, l'anno non lo ricordo sicuramente, è stata chiusa quando praticamente tutta ICN è passata sotto internet, che è stata abbastanza presto, nel senso che è stato uno dei primi nodi, diciamo, dei primi siti antagonisti che si sono affacciati su internet. L'anno sinceramente non lo ricordo. Ok, io invece mi ricordo molto bene che è stata la prima BBS a cui io mi sono collegato nella mia vita, nel senso che quando avevo comprato un modem e gli abbonamenti a internet costavano ancora svariate centinaia di mila lire all'anno, mia mamma non voleva farmi l'abbonamento perché aveva paura dei porno, questo me lo ricordo perfettamente, e allora io ho detto: cosa me ne faccio di questo modem? Ho comprato una rivista di BBS e ho detto: vediamo se ce n'è una a Brescia, e c'era segnata solo quella di Radio Onda d'Urto. Non sapevo assolutamente cosa farmene, però mi ricordo benissimo che ho navigato un attimo dentro, ho scaricato delle immagini relativamente all'Irlanda, all'Ira, e delle immagini pacifiste o qualcosa. Non avevi trovato le immagini porno? No, non c'erano quelle, ICN aveva un altro scopo principalmente. E quindi proprio tra l'altro di ICN torneremo anche tra un attimo a parlarne, proprio con un altro estratto di questa intervista a Vittorio che ripercorre anche un po' che cos'era ICN, un brevissimo estratto prima di passare ad altre cose. Ma adesso ci dicono che c'è una telefonata, anche se non si riesco a capire su che canale, eccola qua. Pronto? Sì, ciao, sono Ivano. Ciao Ivano, puoi abbassare la radio per favore? Subito. Ok, nel grazie. Nel 95 è stata chiusa la BBS. Perfetto, allora tu te lo ricordi? Sì, non vorrei sbagliare, ma mi sembra verso la fine del 95. A me sembra un po' troppo presto. No, è possibile invece, perché in quell'epoca appunto ICN si stava spostando. Sono sposato nel 93, nel 94 c'era il PC col modem, poi mi è saltato l'alimentatore per il fulmine, era a fine dicembre del 95 e poi mi sa che è passato su coso, però c'è qualcuno che lo sa, il webmaster o cosa del genere, insomma, se volete saperlo. E tanto sono peccato, penso, o qualcuno. Proveremo a chiedere anche lui. Ma tu trasmettevi in radio, com'è che te lo ricordi? Anche tu eri trasmettevi in radio, ascoltavi già la radio, ti collegavi alla BBS? Sì, infatti quello era l'unico modo per avere informazioni su dove andare, cosa fare, muoversi, concerti, eventi dall'inizio di Radio Onda d'Urto, no? Di collegarti, vedevi cosa c'era in giro, poi vabbè, ho partecipato, ho contribuito suonando a gratis, diciamo, niente di particolare, un po' il circolo, un po' il vecchio magazzino, qualche occupazione, cosa del genere. Tu sei abbonato a Radio Onda d'Urto? No, mi sono perso via un po' ultimamente. Ok. Mi sono perso via un attimo e niente, comunque vi ascolto spesso e vabbè. Grazie mille della tua telefonata, ciao, a presto. Ciao. Ok, quindi abbiamo ricevuto anche una telefonata di qualcuno che se lo ricordava meglio dei redattori e forse qua non è stata una bella, bellissima figura, però... Perfettamente in linea. Perfettamente in linea con la prima parte della nome della trasmissione, ovvero Cialtroni, esatto. Allora, torniamo a parlare di ECN, ce lo facciamo spiegare magari da questo estratto molto breve di Vittorio. Tra l'altro di ECN si continua a parlare, anche la settimana scorsa avevamo fatto uno speciale proprio su ECN e l'ennesima, diciamo così, problemi che aveva questa rete. Ascoltiamo quindi un'altra parte su cos'è ECN, registrata nel 1994. Sempre che si tuteli. Il discorso è questo, vabbè, ECN brevemente, ECN è una rete di comunicazione, diciamo per i movimenti, una rete di comunicazione antagonista, è la stessa sigla, European Counter Network, vuol dire rete di controinformazione europea, serve a veicolare prevalentemente notizie, informazioni, su avvenimenti, su iniziative, sullo sviluppo del pensiero antagonista. E in un certo senso questa sua stessa natura la tutela dalla pirateria in sé, per quanto in linea teorica noi non si può che come dire, apprezzare i tentativi di abbattimento di copyright e quindi della libera diffusione dei prodotti del pensiero e dell'ingegno umano. Comunque, per la sua natura tecnica, trasmettendo testi prevalentemente, non vi è la possibilità che venga scambiato del software. Per capirci, i testi di per sé occupano come spazio di memoria una quantità di molti ordini di grandezza inferiore a quella che invece è riservata al software. Per la strutturazione delle nostre BBS, per la strutturazione dei nostri poli, sarebbe molto difficile veicolare software pirata. E infatti il primo attacco contro ECN era stato, contro le BBS in genere, era stato fatto proprio con la scusa del fatto che si scambiava del software pirata. Quindi insomma, da un certo punto di vista, le cose negli ultimi 10-15 anni non sono cambiate molto, visto che anche le major discografiche adesso accusano di pirateria appunto molti dei software che passano attraverso internet e sono stati chiusi, come abbiamo spesso, di cui abbiamo spesso parlato in queste trasmissioni. A proposito di questo, c'è un certo articolo pubblicato su Apogee Online di Bernardo Parrella, che fa appunto una riflessione sul si intitola "Ancora lontano l'equilibrio sul copyright nell'era digitale", fa un po' il punto della situazione raccogliendo una serie di notizie degli ultimi mesi e alcune attività portate avanti da alcune associazioni culturali soprattutto americane a seguito di Lawrence Lessig, l'avvocato che ha scritto le Creative Commons, o comunque che ha dato l'idea originale ai Creative Commons. Insomma, fa un po' il riassunto delle battaglie che ci sono oggi in corso riguardo appunto al copyright e ai vantaggi che invece ci sono nel recupero del fair use, cioè ovvero nell'uso gratuito o nella possibilità di utilizzare le informazioni, i prodotti intellettuali per un uso non a scopo di lucro. È una riflessione interessante, poi raccoglie appunto un po' di notizie, così un articolo da leggere, poi lo trovate linkato sul sito. Perfetto, a questo per dare anche qualche news, ma ricordiamo, siamo in campagna abbonamenti 030 45670. Se vi abbonate prima della fine della trasmissione, Marco GH verrà a casa vostra a installarvi Linux sul vostro computer, un premio speciale dedicato da Cialtroni nello spazio. Ovviamente se volete, no? Sì, ecco, non siete obbligati, diciamo. L'importante è che nascondete il cibo in casa, perché... E tra l'altro, proprio relativamente al software libro e la redazione di Radio Onda d'Urto, noi avevamo anche pensato di intervistare Rosangela, che adesso non so se ci sta sentendo, ma la invitiamo a venire in studio con noi per farci raccontare di una sorpresa che era successa un giorno dopo l'incendio. Rosangela, puoi venire qua in studio con noi, per favore, in questo momento? Sta ridendo e sta giungendo in trasmissione, avevi promesso che l'avresti fatto e quindi adesso... È vero, ieri invece l'hai promesso. Allora, Rosangela era una delle persone che c'era in radio nei giorni successivi all'incendio, durante una cosa che forse non è molto nota agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda d'Urto, quando c'è stato l'incendio del maggio del 2003, di Radio Onda d'Urto, alcuni ragazzi del Circo Lab, dell'allora Circo Lab, avevano installato e messo a posto la rete della radio, così in strutture di emergenza, in una notte. Che cosa è successo la mattina dopo quando siete arrivati in radio? Senza dormire, aggiunge qualcuno in parte. Forse Cristiano, tu eri uno di quelli che aveva... No. Ecco, allora Cristiano dovrebbe parlare nel microfono. Io sono stato il primo ad andare a dormire di quelli che si erano fermati lì la notte. Quindi tu ero sei arrivato a casa alle 6:30 di mattina, 7:30 mi ero alzato e ero andato a lavorare. Avevi passato la notte a mettere a posto la rete dei noi computer. Noi abbiamo riconosciuto il grande lavoro fatto. Che cos'è successo quando siete arrivati il giorno dopo? Niente, ci siamo solo un po' spaventati. Come mai? Perché nessuno di noi è in grado di usare Linux, semplice. E quindi praticamente voi avete installato, approfittando dell'incendio, no, la rete. No, non era stato approfittando, era stato semplicemente con quello che avevamo, quello che c'era a disposizione era stato usato. Tra l'altro la notte era stata passata anche cercando di convincere Marco e, chi, e gli altri che c'erano a fare in modo che l'interfaccia grafica che vi si sarebbe presentata la mattina fosse il più possibile simile a quella a cui voi siete abituati. Cosa che effettivamente poi non ci sono due microfoni, non ha funzionato comunque, perché in effetti vabbè, molti di noi usano computer così com'è, ti abitui giorno dopo giorno a usare Windows. Adesso non voglio fare pubblicità a niente, però è chiaro che si riferisce a questo sistema operativo, per cui poi uno non ci mette testo, non c'ha voglia, non c'ha tempo di imparare di fatto altro. Soprattutto nei fretta, giorni dopo l'incendio, sì, forse appunto, non c'era molto fretta, senza togliere, voler niente togliere a nessuno. Ripeto, il lavoro è stato sicuramente un ottimo lavoro, un grosso ringraziamento avevamo anche subito naturalmente dato ai compagni e compagne che si erano naturalmente davvero speso il loro tempo. Però il problema grosso è che se uno non è abituato a usare il computer e non c'è proprio voglia di farlo, Linux non è un sistema operativo molto semplice per chi non conosce. Ridete, ma a parziale, vabbè, quella situazione, diciamo che avevamo i computer dal circolo che da sempre sono dei computer rottami e abbiamo tentato di tirarli insieme in qualche modo, e alla fine della nottata, la mattina, avevate comunque dei computer che potessero andare in internet, poteste leggere la posta e fare qualcosa. Registravano dei file audio, una cosa non indifferente. Forse quello non era riuscito a fare la prima notte. No, ma il problema è che in effetti faceva un po', sì, forse si poteva già anche registrare qualcosa, non era tanto appunto il lavoro fatto, perché il lavoro era un ottimo lavoro. Il problema grosso è che noi non eravamo neanche in grado di aprire un file documenti, perché il tragitto, il modo di non fare era dove completamente diverso, neanche dove cercarlo. Cercavano le risorse del computer e non c'erano. Grazie Rosangela, grazie di essere stata con noi a testimoniare insomma anche la cialtronaggine di chi passa la notte intera, però non spiega poi la mattina, il giorno dopo, tutto quello che c'era. No, avevamo preparato stavo scherzando, anche tutti Cristiano. Gli appunti avevamo preparato. Anche la documentazione. Avevamo preparato anche la documentazione dicendo entrate, cliccate qui, poi cliccate lì, dovete far così, è tutto pronto. Potremmo aggiungere quindi al regalo speciale di Cialtroni nello spazio non solo che Marco installerà sul vostro computer Linux, ma vi insegnerà anche ad usarlo, e quindi potete telefonare, è un'occasione da non perdere per abbonarvi a Radio Onda d'Urto in questo spazio. Avrete poi Marco a casa vostra a spiegare che cosa, come funziona Linux. 030 45 670. Tanto manca solo pochi minuti, quindi questo è quello che dici tu. Noi in realtà potremmo andare avanti per svariato tempo, siamo qua con un sacco di materiale d'archivio, siamo qua con due storici redattori della radio e alcuni nuovi come noi tre, e le telefonate degli ascoltatori e delle ascoltatrici che possono anche telefonarci semplicemente per dire che non gliene frega niente del software libero, assolutamente legittima come posizione. E proprio relativamente invece un po' alla storia della radio, invece tornerei proprio a quel dibattito che c'era, che stavamo presentando a stralci prima, e farei ascoltare un'intervista fatta a Gomma. Non so da quale punto forse pensi che sia meglio partire, Alessandro, che hai curato un po' di più questa parte d'archivio. Vabbè, Gomma è stato intervistato sempre nell'ambito di una grossa intervista che c'è stata dopo l'Italian Crackdown. Però in un passaggio appunto comincia a parlare di internet nel 94, quindi nel 94, insomma, che era una realtà praticamente assente in Italia, e difatti la descrizione che Gomma dà è abbastanza strana, cioè risulta anche difficile per chi non conosce e non riesce a decifrare il linguaggio più o meno informatico, che si stia parlando di internet. Comunque c'è l'intervista di Gomma che faceva parte della Shake e di Cybernet, e appunto la prima domanda è: che cos'è internet? Pardon. Spiego un attimo internet in due parole. Perché... Beh, internet è, la, è, un, diciamo, è una rete di reti, cioè mette in collegamento diverse reti e dà tutta una serie di possibilità tecniche per fare delle operazioni in linea, come ad esempio la possibilità di andarsi a prendere dei file nel luogo in cui questi file sono contenuti. Ad esempio possiamo andarci a prendere un file in una banca dati in Australia oppure negli Stati Uniti, in sostanza è una concretizzazione del vero e proprio principio di rete, ovvero i dati non vengono raggruppati in un'unità centrale ma stanno in diverse sedi periferiche e attraverso l'internet si ha la possibilità di andarle a prendere dove effettivamente queste stanno, per cui c'è una possibilità virtualmente illimitata e a costi bassissimi di soprattutto di accumulo dei dati, perché altrimenti ci vorrebbe un hard disk o una serie di hard disk enorme. Invece così essendo allocati questi file su tantissime macchine distribuite in tutto il mondo, c'è praticamente una sorta di gigantesco hard disk che ricopre tutta la superficie terrestre. Beh, inoltre poi internet ha tutta un'altra serie di servizi, come ad esempio quello della messaggistica, del newsgroup, dell'IRC, che è la chat line, sostanzialmente il dialogo elettronico il tempo reale. Poi adesso sono venute fuori delle nuove opzioni come Gopher, che permette di fare una ricerca per parole chiave di file e quindi sappiamo esattamente dove andare a cercare un determinato file, oppure le ultime evoluzioni del Gopher che vengono chiamate metafunzioni di Gopher sono ad esempio il World Wide Web. Che ha una possibilità di ottenere della grafica in tempo reale e si stanno facendo degli esperimenti per trasmettere piccoli spezzoni di film o di animazioni. Oppure ancora c'è una modalità, modo testo di World Wide Web, detta Veronica, che è veramente una opzione potentissima e che permette sempre una ricerca per parole chiave di file. Ad esempio ci interessa sapere, dove sono allocati determinati file di un argomento qualsiasi, la bomba nucleare. Esatto, ecco, non solo sappiamo dove sono questi file, ma abbiamo anche la possibilità di poterli visualizzare selezionandoli da una lista che via via andrà leggere questo file. Poniamo tra una macchina che è a Tokyo e un'altra macchina che è in Finlandia, oppure quello successivo a un'altra macchina che è in un'università di New York. E quindi fa un po' ridere sentire proprio queste dichiarazioni adesso su come funzionava internet, queste nuove opzioni che possono aggiungere la grafica e cose di questo tipo. Beh, tanto per chiarire, per tradurre di cosa stava parlando, allora per quanto riguardava Gopher era sostanzialmente l'antenato di quello che oggi è Google, cioè dei motori di ricerca che allora non esistevano. Del World Wide Web è quello che è www. Il www che ormai è diventato l'alternativa, il sinonimo di internet, quindi lì era un'evoluzione, una nuova fantastica evoluzione della tecnologia. Quando parla della modalità testo non è altro che il primordio dell'HTML, che è il linguaggio utilizzato per scrivere le pagine internet. Quindi tutte cose che adesso sembrano comunque abbastanza alla portata anche di chi non è esperto, insomma, almeno comunque già sentito. Poi la messaggistica sono le mail, ELC era l'antenato di CQ delle chat, quindi, e se parliamo di 10 anni fa. Quando è che è arrivata internet in radio, Pony? Io ti faccio sempre domande più difficili. No, ma io non mi ricordo quando sono nato e ti faccio queste domande. Nel 95, dicono tutti, quindi è sicuramente nel 95. Quindi un periodo in cui non era ancora molto diffusa in Italia. No, infatti, penso che sia stata appunto anche una delle prime radio che ha utilizzato questo tipo di strumento. Volevo solo aggiungere per capire anche il periodo che io lavoro e lavoravo all'università e mi ricordo che proprio in quel periodo la connessione a internet di tutta l'università era stata aggiornata da 9600 kilobit a 19.200 e sembrava una cosa fantastica. Vabbè, cioè circa un terzo dei comuni modem 56k che ormai sono ancora esatto. molti. Per dire come quali erano diciamo le velocità con cui si utilizzava internet, per cui allora non c'era l'MP3, non si scambiava musica e così via, per cui anche l'intervista di Gomma con diciamo questo suo entusiasmo per internet così che noi può adesso far sorridere, allora era sicuramente ben motivato. Bene. Allora, noi siamo ancora indecisi su come proseguire questa trasmissione. Ma ti farei una domanda, visto che ti faccio un po' di pubblicità. No, beh, visto che come... No, aspetta, ricordiamo intanto che per chi si abbona all'interno dello spazio di Cialtroni nello spazio, Marco GH sarà disponibile a installare Linux sul proprio computer, che Marco è sempre contento di far sapere questa cosa, quindi potete telefonare e abbonarvi allo 030 45670, l'abbonamento per Radio Onda d'Urto, e avrete... oltre ai DVD e ai CD che ci sono in regali per questa edizione speciale del ventennale di Radio Onda d'Urto, anche la possibilità di avere Linux installato perfettamente funzionante sul vostro computer tramite Marco GH. Continua pure. No, stavamo appunto parlando di come la radio è cambiata, comunque dell'ingresso di internet nella radio. E siccome so che comunque ne hai trattato nella tua tesi, ci fai un riassuntino dell'argomento. Sì, potevamo parlarne anche più tardi, però più tardi? Sicuramente non c'è nessun problema, nel senso che internet ha portato dei grandi cambiamenti, soprattutto negli anni dal 99 in poi, dal 98 in poi, quando è iniziato ad esserci un po' di banda più larga e comunque la disponibilità di anche, magari non tanto per gli utenti, che quella è arrivata un po' dopo e non è ancora ampiamente diffusa, però soprattutto per delle strutture come le radio, la possibilità di scambiarsi dei file. La radio tipicamente si è spesso integrata molto bene con altri mezzi di comunicazione, basta pensare a come la radio si è integrata con il telefono rispetto a quanto ha fatto la TV, che fa ridere un po' le telefonate che arrivano in televisione, di cui non si vede l'immagine, si sente solo la voce, e invece sicuramente la radio ha potuto integrarsi molto meglio con questo mezzo di comunicazione, ed è dimostrato anche per esempio per quanto usiamo noi il telefono, fa un po' ridere riascoltare per esempio le vecchie registrazioni di Radio Alice nel 77, che faceva le dirette delle manifestazioni dalle cabine telefoniche. Ma abbiamo una telefonata, pronto? Ciao, sono Clara. Ciao Clara. Volevo sapere, ma la favolosa offerta Mappi... Grande Clara. Tu sei già abbonata, Clara, però. Ecco, vale solo per i nuovi abbonamenti? No, vale anche se aumenti l'abbonamento. Ancora? No, ascoltami, comunque. No, mettetemi in lista comunque, che inventerò casomai un nuovo abbonamento minimo stavolta. Puoi anche trovare un altro abbonato, non è... Ecco, questo vale. Ecco. Come allora, mettetemi in lista che poi io ci penserò al nuovo. Va bene, ma fuori onda ti daremo il numero di telefono di Marco per metterti comodamente d'accordo con lui per installare Linux sul tuo computer. D'accordo, un caro saluto a Cristiano. Ti saluta Cristian. Ciao. Non l'hai sentito, ma è lontano dal microfono. Non fa ancora... niente. Ciao a tutti, buon lavoro. Ciao, ciao Clara, grazie. Ciao. E quindi insomma sta avendo i primi riscontri questa offerta. I primi riscontri questa offerta di Cialtroni nello spazio. Raddoppiamola, se non volete Marco potete avere Alessandro a casa vostra a installare Linux. Traditore. Ok, perfetto, allora, stavo dicendo, allora, vabbè, a parte le cose sull'integrazione col telefono, sicuramente un cambiamento notevole è stato quando, soprattutto per le radio, diciamo così, del movimento, come d'altronde ha anche spiegato un po' Andrea Borgnino oggi al telefono, quando è nata la possibilità di scambiarsi dei file, cioè poter creare delle trasmissioni, poter creare anche solo delle piccole interviste e metterle a disposizione di tutte le altre radio di movimento, una cosa che era Radio Onda d'Urto utilizza tantissimo, per esempio soprattutto nel periodo di Radio Gap sarebbe stato molto difficile fare una cosa come Radio Gap anche solo da Genova, cioè avere una sede centrale a Genova che poi veniva ripetuta in varie città italiane. Se si fossero dovuti costruire ponti radio così al momento per una cosa che durava solo una settimana, sarebbe sicuramente stato molto ma molto più complicato che non montare due computer, trasmettere da uno studio e poi riprendere dai computer e ritrasmettere nelle varie Bologna, Torino, Brescia, Roma e Milano, che erano appunto le città di cui faceva parte il circuito di Radio Gap. Altre cose relativamente a internet, io penso che questa per le radio come la nostra sia stata quella principale, ma anche dal punto di vista dell'ascoltatore, trasformare la radio in qualcosa che non è più solo nel tempo, perché la radio non è come un giornale in cui tu lo sfogli e puoi saltare le notizie, devi ascoltartela tutta, pippartela tutta, viene un po' da dire, sincrona. Esatto, mentre invece metterlo a disposizione sul sito web i servizi più interessanti, chiunque che non è riuscito anche durante il giorno ad ascoltare le cose più interessanti e se le vuole riascoltare a casa può farlo, tecnologia permettendo, insomma, anche a proposito ricordiamo che sul sito spazio.circola.net ci sono le nostre puntate vecchie e ci sarà anche questa. E se volete avere la vostra voce all'interno di una di queste puntate potete telefonarci subito allo 030 45 670 per avere abbonamenti, per rinnovare abbonamenti con l'opzione più Marco GH che ci installa Linux, o più Alessandro, o più Alessandro, è vero, abbiamo lanciato anche questa, c'è gente che potrebbe fidarsi di più. Zap non ve lo proponiamo perché non sarebbe il caso. Beh, a parte che GH ha fallito quando questa era un'anticipazione, il Circolab si tra un po' riaprirà, rimuove lentamente, si rimuove, sì, dopo essere stato rimosso. Esatto, no, era voluto il gioco di parole, si rimette in movimento. Abbiamo iniziato i lavori nella sede nuova in via Fratelli Bandiera. E speriamo di riaprire il prima possibile. Torniamo dunque in questa trasmissione speciale, continuiamo a riascoltare materiale di archivio. Alessandro, che cosa pensi che possa collegarsi bene a quello che stavamo dicendo, anche le nuove tecnologie, insomma, le radio di movimento, le mobilitazioni? Allora, c'è un passaggio appunto di Gomma in cui spiega come dalla rete, comunque dalla comunicazione in rete e soprattutto dagli utilizzatori delle reti che esistevano in America, che allora erano appunto i primordi di internet, sono nate poi delle mobilitazioni molto forti per quanto riguarda le libertà personali. Porta il caso di PGP e fa un ragionamento in generale su come si è mobilitato, insomma, il pubblico di utenti di internet ai primordi. Il caso più clamoroso è quello della criptazione dei dati, ovvero è stato introdotto da parte di un gruppo definito di cypherpunks, cioè punk giocando un po' sul cyberpunk e punk cifrati, cypher, questo programma che si chiama PGP e che permette di fare una serie di operazioni sui messaggi che noi introduciamo dentro internet. La funzione principale è di rendere il messaggio indecifrabile se non dalla persona a cui questo messaggio è indirizzato. Inoltre si ha una possibilità di un'autentica, ovvero se io come Gomma introduco il mio messaggio dentro internet utilizzando questo programma, vedendo la firma che sta alla base, che è un codice, si può essere sicuri che quel messaggio l'ho scritto proprio io. C'è una sorta di garanzia che quel messaggio sia stato scritto proprio da me. Oppure ancora si ha la possibilità di verificare che un messaggio non sia stato in un qualche modo alterato. Ecco, chiaramente l'FBI ha cercato di intervenire insistendo sul fatto che la comunicazione cifrata andrebbe contro una serie di leggi statunitensi. La trasparenza dei messaggi. Esatto, no? È che ci voleva una trasparenza dei messaggi. A questo punto questo gruppo, che nel frattempo è cominciato a allargarsi, coinvolgendo anche gruppi che difendono le libertà civili, sottolineava come la posta elettronica non è molto diversa da quella che è la posta, quella comune che noi inviamo per lettera. E diceva, come c'è bisogno di un'autorizzazione per aprire una lettera, una busta chiusa contenente una lettera che io posso spedire a un mio amico. Poi in America sono molto fiscali su queste cose. Esatto, no? Così pure vogliamo avere una garanzia della privacy per quanto riguarda la posta elettronica. A questo punto il governo ha proposto un'alternativa che si chiama Clipper, che è un chip che permette, da installare dentro nella macchina che si sta usando, è un chip che permette la criptazione, però che ha delle backdoor, ovvero delle possibilità da parte del governo stesso, degli organi di controllo, di poter, quando queste ne abbiano l'esigenza, di poter decrittare il messaggio. A questo punto però è successa una cosa che secondo me è molto significativa, che tutti questi gruppi, che nel frattempo si sono allargati di molto, hanno scatenato una battaglia politica per contrastare l'introduzione del Clipper e per la difesa totale della privacy della posta elettronica. Questo anche accettando tutta una serie di contraddizioni che effettivamente esistono, perché uno attraverso un dato criptato potrebbe anche compiere dei reati, poniamo, no? Potrebbe mettersi d'accordo con altre persone per commettere altri. Quello lo può fare in qualsiasi modo. Lo potrebbe fare in qualsiasi modo, però è vero che è una contraddizione all'interno di un dibattito politico. Sta di fatto che però queste persone stanno raccogliendo 500.000 di firme e pare che ci stiano riuscendo, per contrastare l'introduzione del Clipper all'interno di Internet e ribadire la possibilità per tutti i cittadini di usare il PGP. Questo secondo me è un po' la differenza tra la situazione americana e la situazione italiana, cioè che lì si sono già costituiti una possibilità concreta della comunicazione in rete. Nel momento in cui un loro diritto viene negato, questi si incazzano e fanno partire una serie di battaglie. È da dire che, vabbè, essendo molto più avanzata la dinamica tecnologica in tutti i suoi vari aspetti, e quindi anche molto più diffuse le macchine, gli accessi, come dicevo, è molto più facile anche far partire queste robe, però è da dire che è una cosa che è sostanzialmente di massa, insomma, sono tutti coinvolti in questa cosa, dall'ultimo degli hacker fino al piccolo imprenditore, insomma, lo spettro dei soggetti coinvolti in questo tipo di dinamica è senz'altro molto più ampio. E quindi questa era l'intervista a gomma tirata fuori dagli archivi della radio. Noi ci stiamo molto divertendo a fare questa trasmissione, ma anche Vera ha il diritto al suo spazio, e quindi stiamo per concludere. Chiudiamo con delle note di Umberto, che voleva dirci delle cose che non sappiamo di che cosa. Colgo l'occasione della presenza di Pony in studio, perché questa mattina, guardando sull'agenda del 1985, dove ho ritrovato i palinsesti della prima radio onda d'urto, oltre che l'elenco di questi 50 sottoscrittori della radio, i grandi finanziatori della radio, che praticamente in una forma primitiva di abbonamento garantivano 10-20 mila lire, alcuni 5 mila lire gli studenti al mese. Arrivati al nome Pony, abbiamo un ottobre, quindi presumibilmente l'ottobre del 1985, di 10.000 lire e un passaggio a 100.000 lire nel novembre, quindi immediatamente è balzato come uno dei grandi finanziatori, e mi è venuto spontaneo chiedermi cosa era successo nel novembre 86 perché Pony potesse passare da 10.000 lire di sottoscrizione mensile ad un centone addirittura. No, io avevo iniziato nell'83, almeno questo me lo ricordo, e non lo so. A lavorare, per cui avevo già un reddito, diciamo, abbastanza sicuro. Non lo so, sinceramente non ricordo. Io però ricordo di essere stato uno dei grandi finanziatori all'inizio, quando comprammo le attrezzature di Radio Alice, perché allora eravamo... Radio Cenerentola, scusate. Allora, guarda, abbiamo fatto anche oggi già un accenno a quanto abbiamo speso. 500.000 il 31 febbraio, perché prima di Radio Onda d'Urto era nata Radio Graffiti, ai compagni di Provaglio. 31 febbraio, quindi evidentemente qui qualcuno aveva dato... No, no, è vero. Sono documenti falsi. 1.400.000 lire il 31 marzo, sempre per attrezzature, 500.000 lire il 17 aprile, e il 17 aprile ci fu l'emissione del segnale in prove tecniche e trasmissione sui 106.5 FM con Radio Graffiti. Quindi praticamente avevamo speso per la radio 2 milioni e... no, è, dunque, 2 milioni e 4. 2 milioni e 4, tanto che poi quando a un certo punto facemmo, non so per che motivo, la stima delle attrezzature, avevamo calcolato che avevamo un capitale di bassa e alta frequenza pari a 7 milioni e 100 mila lire, diviso con appunto attrezzature di bassa frequenza. Avevamo dovuto comprare il bobinone per e l'autoreverse per la notte, eccetera eccetera. E adesso non trovo più la pagina. Comunque, beh, la cosa incredibile è che prima... tu abbia ancora questa agenda, mentre noi con i nostri dati, computer, eccetera, avremmo sicuramente perso tutti questi dati. Sede 4 piatti 400.000 lire, 4 piastre 500.000 lire, un bobinone 1 milione, il compressore 180.000 lire, due mixer 300.000 lire, un trasmettitore da 1 milione, cavi vari da 100.000 lire, 4 microfoni da 200.000 lire. Poi nella postazione, cioè l'alta frequenza, avevamo un ricevitore da 1 milione, modulatore, vabbè, per un totale di 3 milioni e 450, totale complessivo di tutti i beni di Radio Onda d'Urto 7 milioni 180 mila. E chiaramente dell'epoca, avevamo anche fatto presente prima con Andrea Borgnino che comunque negli anni 80 con 2-3 milioni si accendeva un segnale. Peraltro chi ha iniziato negli anni 70 lo faceva probabilmente anche con meno, però non c'era bisogno di comprare frequenze, non c'era bisogno di tutto ciò che poi ha imposto la legge Mammì, e che di fatto ha reso sempre più difficile per chi non ha grossi capitali da investire poter accedere al mondo dell'etere. Noi ringraziamo Umberto per queste precisazioni. Come stavo dicendo prima, noi avremmo sicuramente perso tutti questi dati se li avessimo salvati sul computer, mentre lui sulla sua agenda, è incredibile, ma a distanza di 20 anni ha ancora la lista della spesa. Ma non era finita in un allagamento la lista del... No, quella no. Allora, sono le 13:20 minuti per chi ci sta ascoltando in diretta. Abbiamo già rubato un po' di spazio a Biovera, quindi vai con la sigla. Da adesso in poi non vale più l'abbonamento speciale con opzione Marco a casa a installare Linux. Ma tanto se l'è già accaparrato la Clara, quindi... Vabbè, dai, senti più Linux, no. Non si è sentito niente, non importa. Noi salutiamo Pony e Cristiano che ci hanno raggiunto in studio. Sulle note della sigla vedo Bendy che ruba il microfono. No, perché volevo dire una cosa, vi stavo ascoltando mentre... Sei sulla sigla e hai 40 secondi. 40 secondi, allora innanzitutto i complimenti alla trasmissione a cui io mi sono affezionato in questo periodo e l'ascolto sempre molto volentieri, e penso che una trasmissione di questo genere, Radio Onda d'Urto, ci stia molto bene. In secondo luogo volevo fare un chiarimento sull'arrivo di internet in radio di cui parlavate poco fa. Curioso che a presentarci internet, ma più in generale il progetto Europe Content Network, sia stato un certo Sandrone Dizieri, che oggi è direttore responsabile dei Gialli Mondadori, che allora era un compagno del centro sociale Leoncavallo, e che lui insieme a tutti i collettivi, diciamo così, che oggi sono riconoscibili, diciamo, nell'area dei disobbedienti o comunque ex disobbedienti, in particolare i padovani, sono quelli che hanno fatto, diciamo così, delle forzature dentro il movimento per cominciare a usare internet in giro per il mondo, e già allora erano stati così, diciamo, accusati di essere avanguardisti, di fare delle forzature, soprattutto scazzi molto pesanti con alcune realtà del sud Italia che ribattevano che loro non avevano neanche soldi per comprarsi da mangiare, figurati se pensavano a internet. Forse ecco una piccola pecca che avete, certo, voi nella vostra trasmissione, che quando non lo sapevamo. Parlate di tecnologie, queste cose qui, dovreste anche pensare un po' di più a quelli che oggi non è solo una questione di conoscenza e diffusione dei saperi, ma anche una condizione economica che gli impedisce il libero accesso. Faremo sicuramente una trasmissione dedicata al Digital Divide. E con questo si chiude la trasmissione speciale campagna abbonamenti di Cialtroni nello spazio, diventata momentaneamente Cialtroni nel tempo. risaluto Giorgio e Cristiano ringraziando di essere venuti con noi, quindi lascio anche saluto a tutti, saluto anche se in ascolto il mitico Max Edrom, che era lui diciamo il sysadmin della BBS, e anche l'altro compagno di cui ricordo il nome ma non il nickname, che era comunque un personaggio completamente tattuato di cui però non ricordo il nome. Perfetto, allora chiudiamo la trasmissione.